Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera riprendiamo un argomento che avevamo trattato per la prima volta ormai un paio di anni fa, agli inizi di Mr. Kilowatt. Parleremo di inverter e siamo nel campo dei motori elettrici. Pensate che nell'industria, che si mangia circa metà della produzione elettrica nazionale, i tre quarti dell'energia elettrica finiscono dentro dei motori elettrici, appunto. E c'è un altro dato molto importante da tenere presente quando si parla di motori elettrici, e cioè il fatto che nell'arco della sua vita, la vita di un motore elettrico può durare 20, persino 30 anni, ebbene, nell'arco della sua vita il 98% del costo legato a questo motore elettrico è dato dal consumo di energia elettrica, mentre solo il 2% è il costo di acquisto. Ebbene, oggi ci chiediamo se in questo comparto, quello dei motori elettrici, si può fare qualcosa per ridurre i consumi, sapendo che, essendo così diffusi questi motori, fare qualcosa può voler dire ottenere risultati molto significativi dal punto di vista dei consumi energetici globali. Ne parliamo con Sigfrido Vignati, che è l'esperto di inverter, appunto, dell'Enea. Buonasera Vignati. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, io ho già anticipato che parleremo a questo punto di inverter. Che cosa sono, che relazione hanno con i motori elettrici? Sì, il motore elettrico è asincrono trifase, è un componente molto diffuso nelle nostre industrie, anche nel terziario. Circa il 90% dei motori è di questo tipo, molto apprezzato dagli operatori perché è un componente molto economico e anche affidabile, però ha un difetto. Quello di avere il numero di giri fisso, ovvero che significa quando si sceglie un motore si sceglie anche il suo numero di giri. Certo. Questo che comporta che se vogliamo per esempio variare la portata di una pompa, che come tutti sanno è azionata e mossa, azionata, certo, da un motore elettrico. Noi non possiamo agire sul numero di giri del motore come si fa sull'acceleratore di una macchina, certo, ma dobbiamo ricorrere a un'altra possibilità importantissima, cioè quella di utilizzare una valvola. Questa valvola ha messa sul circuito della pompa ha il compito di regolare la portata, un po' come facciamo a casa con il rubinetto dell'acqua per aumentare o diminuire la portata quando per esempio ci laviamo le mani. Ecco, se pensiamo all'esempio dell'automobile, noi regoliamo la velocità dell'automobile premendo sull'acceleratore, quindi variando il numero di giri del motore, invece molti motori elettrici vanno praticamente al massimo, ma si tiene sempre un po' il piede sul freno e si regola la velocità così. Questa valvola di cui lei parlava è una strozzatura che fa sì che il flusso di acqua, per esempio, sia inferiore, anche se il motore sta andando al massimo. E questo è uno spreco, naturalmente. Questo è uno spreco, infatti questi sistemi, in particolare la valvola, sono sistemi molto pratici, anche economici, però certo, hanno un difetto, quello di far sprecare molta energia al sistema. Dunque, abbiamo fatto l'esempio delle pompe, ci sono altri casi in cui è utile applicare un inverter? Beh, sì, ventilatori, compressori d'aria, compressori di freddo, nastri trasportatori, cioè tutti quei componenti dove c'è la necessità di variare il numero di giri. Ecco, più o meno quanto spesso capita di doverli applicare? Perché poi, insomma, costeranno anche questi oggetti, no? Sì, sì, l'inverter ha un costo non da poco, quindi sicuramente prima di essere installato è necessario fare un'analisi costi-benefici. Ecco, da una statistica europea si può dire che, per esempio, nel caso delle pompe, 6 pompe installate su 10 possono avere benefici dall'installazione di un inverter. Certo, e quant'è il risparmio che si ottiene quando si applica mediamente a pompe e ventilatori un inverter? Ecco, circa il 35% di energia elettrica che una pompa o un ventilatore consuma nell'arco di un anno può essere risparmiato con l'utilizzo di un inverter. E se consideriamo appunto che questi dispositivi sono estremamente diffusi in campo industriale, immaginando di applicare inverter in tutti i casi in cui sono utili, viene fuori che si risparmia una fetta consistente di consumo energetico addirittura nazionale, qualche punto percentuale. Certamente. Per dare l'idea dell'impatto solo della diffusione degli inverter. Senta, ci siamo lasciati 2 anni fa dicendo che però erano in pochi a utilizzare questi inverter, che l'incentivo del 20%, la detrazione fiscale del 20% che era presente, che tra l'altro è sparita, ora non c'è più, era poco utilizzata. Allora, cosa è successo negli ultimi 2 anni? È migliorata la situazione? È rimasta stabile? Beh, possiamo dire questo, che sulle nuove installazioni normalmente l'inverter viene utilizzato, quindi le nuove pompe, i nuovi ventilatori che vengono installati quasi sempre, nel caso ci sia da variata portata, vengono corredati con un inverter, con il variatore di giri. C'è molto da lavorare invece sui componenti già installati, cioè i vecchi componenti che sono già installati nelle vecchi motori nelle, elettrici, le vecchie pompe, i vecchi ventilatori, cioè quelli già installati, che naturalmente sono stati installati in tempi dove questo componente era poco conosciuto e ancora non era così diffuso, e quindi la portata viene tuttora regolata attraverso le valvole, come abbiamo detto prima. Ecco, in questi casi qui c'è da intervenire ancora in maniera massiccia. Grazie Vignati. Prego, buonasera a tutti. Una riflessione per chiudere: abbiamo detto che il costo di questi interventi è da valutare in rapporto ai benefici, ma ci sono molti casi in cui l'investimento viene recuperato rapidamente, addirittura in meno di un anno. Inoltre resta il dubbio che questo incentivo del 20%, che è stato poco utilizzato dalle imprese, fosse di fatto troppo poco interessante, e che si potrebbe invece fare molto ripristinando un incentivo di questo genere e magari aumentandolo un po'. Certo, di questi tempi è tutto più difficile. Appuntamento a domani, sempre qui su Radio 24. Buona serata.